Letture di Radio 24. In tempi di crisi si risparmia anche sui funerali, mentre la crisi occupazionale spinge sempre più persone a investire nel business del lutto. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Monza e Brianza, nel 2011 i costi per le onoranze funebri sono scesi del 25%, mentre aumentano i pagamenti rateizzati o insoluti. Per dirla con le parole di Giovanni Caciolli, segretario nazionale di FederCofit, Federazione Nazionale del Comparto Funerario Italiano, non si muore più come negli anni Ottanta. Eppure le cifre che girano attorno a questo mondo sono ancora alte, altissime. Il fatturato dell'ultimo anno è pari a 2,7 miliardi di euro, di cui, secondo una stima dell'Agenzia delle Entrate, circa il 50% sfugge ai controlli del fisco. Significa 3,7 milioni di nero al giorno, un po' come se un morto su due arrivasse al cimitero da solo, dichiara Sereno Scolaro di Sefit, Servizi Funerari Pubblici Italiani. Ma proprio l'illusione di guadagni facili assieme alla liberalizzazione del mercato ha fatto sì che sempre più persone abbiano deciso di investire nel business del lutto. Se nel 2000 c'erano 3.500 imprese funebri, nel 2008, con un incremento dell'86%, se ne calcolavano 6.500 e secondo Sefit, negli ultimi 3 anni, c'è stato un ulteriore aumento di 1,2 punti. Non si registra, invece, una crescita nel numero dei decessi. Anzi, nel 2010 le morti sono state 587.488, 4.000 meno che nel 2009. Il calcolo, quindi, è presto fatto. Ogni agenzia effettua sempre meno servizi, di media 85 all'anno. Una cifra troppo bassa che cannibalizza il mercato e favorisce tutti quei meccanismi illeciti di accaparramento dei cadaveri. E così, mentre sempre più infermieri e infiltrati delle pompe funebri girano per le corsie degli ospedali in cerca di moribondi da segnalare agli amici, per un compenso di qualche migliaia di euro, nelle grandi città italiane nessuno si stupisce più di vedere enormi cartelloni pubblicitari che reclamizzano funerali low cost. È la guerra dei becchini che non ha risparmiato Milano e Napoli da denunce, incendi e sparatorie. Come si fa a risparmiare? Facile, si taglia sulla bara, le corone di fiori, le partecipazioni, i manifesti, il carro funebre e quei piccoli accessori come l'abito dei necrofori che fanno la differenza tra un servizio normale e uno di classe. La prima voce a cui badare per non far impennare il conto è relativa alla scelta del cofano. I più economici sono quelli di importazione cinese, romena e guatemalteca. Il prezzo per un sarcofago semplice di abete o larice si aggira attorno ai 600 euro. Ma se ne possono spendere solo 60 comprando una bara in cartone duro che simula il legno dalla ditta argentina Resbox. Normalmente ci chiamano per le catastrofi come lo tsunami o l'uragano Katrina, fanno sapere da Buenos Aires, ma sono in crescita le esportazioni anche per funerali privati. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Elena Montobbio «Con la crisi anche l'ultimo viaggio diventa low cost» dal numero 37 gennaio 2012 del mensile Il.